siamo in pochi, ma spero tutti buoni. E quindi cominciamo questo nostro incontro. Abbiamo due ospiti di prestigio e ci dispiace che l'uditorio, per quanto qualificato, non sia numerosa e all'altezza della occasione. Questo incontro nasce non semplicemente dalla contingenza che Franco Vincenti e Cristiano Sporzolini che vivono abitualmente in Colombia, sono attualmente in Italia, quindi non si poteva perdere l'occasione per questa testimonianza di prima mano di due osservatori particolarmente qualificati. Ma l'incontro nasce dalla intenzione programmata della fondazione di dedicare la sua attenzione privilegiata nel settore internazionale a due continenti, l'America Latina e l'Africa, per ragioni differenti, ma anche in forza della tradizione storica della fondazione. Parlavamo un attimo fa, ripercorrendo le tappe dell'impegno di Lelio Basso, che proprio sull'esperienza dell'America Latina, dopo il primo tribunale, quello Russell sul Vietnam, ebbe occasione di mettere insieme una pluralità di intellettuali di tutto il mondo, cominciando con l'esame della situazione cilena, in quel momento fortemente compromessa dal punto di vista delle libertà democratiche, ma poi espandendo l'attenzione a tutte le diverse dittature dell'America Latina. Il prodotto finale fu una serie di sentenze fatte sulle dittature dell'America Latina, e lì nasce l'incontro che così è intrecciato in tutti questi 40 anni, non solo tra Lelio Basso e le esperienze dell'America Latina, ma tra l'America Latina e il tribunale che permanente dei popoli, che nasce come erede del tribunale Russell secondo, e che fu fortemente voluto da Lelio Basso, che purtroppo non vide la sua realizzazione con la prima sessione, perché Basso ci lasciò nel 78 e il tribunale finalmente, sulla scorta ovviamente delle sue indicazioni, vide la luce l'anno successivo, ma in tutti gli anni il tribunale ha sempre avuto un'attenzione particolarissima all'America Latina. La seconda delle sessioni dell'80 fu dedicata all'Argentina, subito dopo al Salvador, poi al Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, alla Amazzonia brasiliana. Poi le tre grandi sessioni sulla conquista dell'America e il diritto internazionale. Una sessione dedicata all'impunità per i crimini contro l'umanità in tutta l'America Latina, che si tenne in Colombia, a Bogotà, la violazione dei diritti dei bambini a San Paolo, ma più recentemente, per venire al 2000, in Colombia il Tribunale ha sperimentato una nuova modalità di sua attività. Negli anni 2006-2008 abbiamo avuto occasione di fare una serie di sessioni e qui abbiamo anche la sentenza che è pubblicata in varie lingue, ma anche in italiano, che adesso, in spagnolo, che adesso tutto ci dà, che è questa qui, è una sentenza dedicata alle imprese transnazionali e ai diritti dei popoli in Colombia, ma di lì, quasi contemporaneamente, a Lima nel maggio 2008 ci fu un'altra sessione, sempre sulle imprese transnazionali in America Latina, ma soprattutto le imprese transnazionali dell'Unione Europea. E ancora 2011-2014 c'è stata una serie di sessioni culminate per 3 anni, nel 2014 a Città del Messico con il tema libero commercio, violenza, impunità e diritti dei popoli. Insomma, l'America Latina è una costante sia dell'interesse della sezione internazionale della Fondazione che del Tribunale, che della Fondazione è una sua articolazione con una composizione a una giuria di 75 membri che di volta in volta poi si individua la singola giuria della singola sessione con giuristi, economisti, uomini di cultura di tutto il mondo. L'America, se vogliamo fare uno schema per arrivare subito poi al contenuto delle relazioni che ci faranno Franco Vincenzi e Cristiano Mussolini, noi siamo stati, abbiamo vissuto come testimoni, anche coinvolgendoci con questa nostra attività, il periodo delle dittature sudamericane, a cui seguirono, grosso modo, ovviamente schematizzo, una serie di fuoriuscite dalla dittatura, ma con governi di destra che si contrassegnarono soprattutto con l'ideologia dei Chicago Boys, cioè del liberismo e del neoliberismo, che ha segnato per molta parte tutti gli anni 90. A un certo punto, intorno agli anni 90, in vari paesi c'è stata una ripresa, possiamo dire democratica, con anche delle ricadute di nuove opzioni di politica economica, insomma un tentativo nei paesi andini, ma come sappiamo anche in Brasile, con l'esperienza successiva di Lula, con in Uruguay e anche in Venezuela, con un superamento della ideologia neoliberista. Certo, non sono mancate le grandi contraddizioni, ma ciò che era al centro di questo tentativo di superamento, di svolta del neoliberismo, è una visione dello sviluppo non solo come sviluppo economico, ma soprattutto come sviluppo umano. Si accompagnava questo al fallimento quasi dappertutto, e comunque al superamento delle opzioni di opposizione come lotta armata, con la più grande eccezione, che è l'eccezione proprio colombiana, questa sera parleremo, perché l'esperienza di guerra armata, di opposizione armata con la guerriglia in Colombia è stata la più lunga, con migliaia e decine di migliaia di morti, con uno scontro tra guerriglia armata da un lato e volto oppressivo armato anche attraverso i contras da parte del governo, col tentativo che qui e lì alcuni hanno cominciato a fare una terza via, che era la via del percorso difficile di realizzazione della pace, che si fa inevitabilmente fra nemici. Se in Colombia si voleva fare la pace, il governo non è che poteva girare l'angolo o aggirare il problema. L'interlocutore era la guerriglia, quindi inevitabilmente, se si voleva intraprendere un percorso di pace, bisognava farlo con la guerra. E io sono testimone, qui voglio affermarlo, che Franco Vincenti è stato uno dei protagonisti di questo tentativo, non da oggi, Io sono stato in Colombia la prima volta nel 1998. E nel 98 il Presidente della Repubblica era Pastrana. E il secondo o terzo giorno che stavamo in Colombia, io ero con l'allora procuratore della Repubblica di Palermo, Giancarlo Caselli, siamo stati invitati a cena dal Presidente della Repubblica. Questo dal punto di vista formale. Dal punto di vista sostanziale, Franco Vincenzo, all'epoca capo dell'UNDP, dell'Agenzia dello Sviluppo delle Nazioni Unite, rappresentante residente del sistema Nazioni Unite in Colombia, realizzò questo incontro tra Presidente della Repubblica e due magistrati italiani. E siccome gli incontri formali non si possono fare così, l'escamotage fu l'invito a cena, il massimo rappresentante delle istituzioni colombiane che a cena può invitare chi vuole, e invitò, oltre Franco Vincenzi, me, Giancarlo Caselli e l'allora ambasciatore italiano che era Io sono testimone che in quella occasione, siamo al 98, cioè 19 anni fa, si è cenno, quindi potrei testimoniarlo anche in tribunale, ai collegamenti che Franco Vincenzo era riuscito a realizzare tra le FARC, Tiro Fico, Berlanda, capo, e la presidenza della Repubblica. Ora, il processo di pace si è realizzato con grandi difficoltà nei mesi scorsi e per tentare di pacificare le contraddizioni colombiane, niente meno il Papa è andato in Colombia dopo essere stato uno dei protagonisti. Per realizzare a Cuba gli accordi di pace, ma questo che è l'esito di un grande e difficoltoso percorso, perché non è facile fra gente che si è confrontata e uccisa e combattuta con le armi, stabilire un'opzione diversa, cioè siamo stati nemici. Se vogliamo salvare il paese, se vogliamo portare avanti, dobbiamo incontrarci su un tavolo. Sono stati consumati, mi verrebbe di dire persi, 19 anni, le stesse cose che sono state realizzate oggi, forse si potevano realizzare 20 anni prima. Certo, 20 anni prima sono passati. Però 20 anni prima non c'era Francesco. Non c'era questo Papa. E non si tratta di cose di poco. Perché il ruolo della Chiesa, dei paesi, dell'America Latina è fondamentale e nel decennio degli anni Ottanta, pure un Papa che è stato un grande protagonista internazionale, che ha rivoluzionato l'Est Europa, era Wojtyła, fu rivoluzionario per quanto concerne gli assetti dell'Est, piuttosto conservatore per quanto concerne l'America Latina, perché io, proprio per essere stato anche in Cile, non posso dimenticare quell'affaccio al balcone della Moneda quando il Papa aveva alla sua destra si perdono o servono 20 anni. Ma anche grazie a dei protagonisti che hanno idee diverse, forza diversa, capacità diversa, e la speranza è che Francesco possa realizzare non solo per la Colombia, ma proprio questo Papa che, come disse lui, la sera in cui fu eletto, viene dalla fine del mondo, termine elegante, per sostituire ciò che gli argentini dicono di sé, che loro abitano nel culo del mondo, dicono gli argentini. Il Papa non poteva dire, stavo questa cosa pubblicamente, visto che viene dalla Fidelbo, la speranza di tutti è che questo Papa che viene dall'America Latina realizzi per l'America Latina ciò che Wojtyła è stato capace di realizzare nel processo di liberazione per quanto riguarda l'est europeo. Avevamo fatto un accenno al liberismo. Vincenti e Morsolin, nell'ambito rispettivo, lui prima come rappresentante residente, quindi come ruolo di ambasciatore delle Nazioni Unite, ha avuto un ruolo di rilievo, che poi era il ruolo spesso anche ufficiale dell'UNDP, che tutto puntava sullo sviluppo umano e non sullo sviluppo economico. Oggi Vincenti non è più nell'UNDP delle Nazioni Unite, anche perché le ONDP ebbero una sorta di deriva molto tecnicistica e poco politica, ma con la sua attività anche in rappresentanza o in collaborazione con l'Unione Europea, che attualmente come presidente della Fondazione Millennia porta avanti questo discorso ancora dello sviluppo umano, cercando di contribuire ad una nuova teorizzazione del rapporto Stato-economia-società che sia davvero il superamento dell'ottica liberistica. E la stessa cosa nell'ambito probabilmente culturale giornalistico fa Morsolino. Io voglio concludere questa introduzione con un riferimento che ho letto su un'analisi dell'America Latina di quasi 20 anni fa, in cui ci diceva che tutta la storia dell'America Latina è stata contrassegnata dal saccheggio da parte di chi? Da parte delle potenze via via dominate. Prima era il saccheggio che con la conquista fecero spagnoli e portoghesi, poi fu il saccheggio che si è fatto con le dominazioni coloniali, più recentemente il saccheggio che si è fatto anche con le ideologie, per esempio, della sicurezza nazionale, e cioè con tutte le dittature, che non erano solo dittature che violentavano il proprio popolo, erano dittature che trasferivano le risorse sudamericane verso le potenze. E poi, ed è la nostra analisi di Tribunale Permanente dei Popoli, con le transnazionali che hanno continuato a saccheggiare le risorse sudamericane per trasferirle nel grande mercato globale dominato dal Nord America, dominato dalle nazioni europee, dalla Unione Europea. Ecco, Franco Vincenti e Morsolin lavorano nel tentativo di rappresentare una cultura dei diritti, una cultura europea che sia estranea alla cultura e alla prassi del segreto. Do loro il benvenuto e siamo qui ad ascoltare la loro testimonianza. Dovete scusare, ma oggi sto molto meglio, ma ieri proprio la voce è andata via, la laringite, penso frutto di queste botte sottili che ho avuto accompagnando mio figlio a Milano. Però bene, cioè, dice sana voce, veramente è stata quasi miracolosa. Quindi se poi la perdo, parlerò per segni, per noi italiani non è un problema. Grazie Franco, grazie per l'invito, grazie Gianni per invito. Per me è un onore poter condividere con voi in questa casa che ha tanta storia, che ha tanta generosa cooperazione con la problematica propria dei lavoratori, delle persone che vogliono condividere le lotte per costruire un mondo migliore. Effettivamente, dopo questi anni, io ho la fortuna di iniziarmi in America Latina, che non conoscevo, mi sono stato aiutato dal calcio, certi mondiali di calcio in Argentina, quindi in realtà felice in Argentina, non sapevo che c'erano i militari. E ricordo quando conobbi tutto il regime di Videla e compagnia, esperienza di vita che mi fece decidere di non tornare più in Italia, di continuare l'America Latina, quella carriera che avevo iniziato con le Nazioni Unite. Però, parlando un po' della circostanza che ci tiene qui e quindi dell'opportunità storica che per Colombia e per l'America Latina, ma io direi la nostra civiltà occidentale può avere il processo, di pace, però di costruzione di una convivenza pacifica e di generare coesione sociale in Colombia. E dico che è una grande opportunità perché non è solamente, forse quello che sappiamo, la guerriglia che poi è stata in commissione con il narcotraffico e quindi i delinquenti che dovrebbero lasciare le armi, pagare bene e dimentichiamoci di quello che è successo e continuiamo come che nulla sia successo. Io dico che è un'opportunità perché dopo 50 anni di guerra, diceva García Márquez, 100 anni di solitudine, la società colombiana ha bisogno urgentemente di incontrarsi con una normalità della vita. E tutto è incatenato. Prima di queste 5 decadi, 50 anni di violenza della guerriglia, i paramilitari e mafie, ci sono stati 3 decadi, quindi altri 30 anni, di predica dell'odio per parte dei partiti politici. La guerra tra liberali e conservatori ha prodotto molti morti, non tanti con la guerriglia, ma si avvicinano, ed una larga tradizione di irrispetto per la condizione umana sotto la forma di esclusione, di razzismo, di classismo, di intolleranza. La società colombiana sta avida di dolcezza della convivenza, di recuperare la fiducia e la costruzione della solidarietà. Le guerre, come confermerai, è il fallimento del diritto. Quindi se noi, quando l'opportunità 20 anni fa, con il comandante Marulanda e il presidente Pastrana, si iniziarono i dialoghi, immagino che erano solamente 5 punti per iniziare un dialogo di fondo. Ricordo che uno di quelli che faceva molto enfasi, Marulanda, era la depenalizzazione della protesta civile. Chiedeva quello come una questione basica. Con la scusa della guerra, Colombia ha vissuto molti anni di stato di eccezione costantemente. Quindi gli elite sempre hanno preso della guerra le circostanze, le motivazioni per continuare a fare sempre più i loro affari. Quindi Marulanda chiese un municipio per dimostrare come si può fare la sostituzione delle coltivazioni della foglia della coca e non entrare nel narcotraffico per l'agenda degli Stati Uniti. Ricordo con molto, non so, con tenerezza, una volta gli chiese a Marulanda, dico, può dire comandante qual è la sua grande aspirazione che ha? Chiuse gli occhi, guardò l'uccello che passava, quando tornano gli uccelli vuol dire che qui la cosa sta bene. Poi dice, ti sono sincero, dice, andare al cinema con mia nipote. Cioè, questo vecchio che sognava che il giorno che potesse andare al cinema, stato, e dico, se l'altra Colombia sapesse l'essenza, che quando cominciò questa guerriglia, erano poche decine di persone, chiedevano al governo di quell'epoca delle scuole, un posto di salute, c'è cose essenziali di una comunità, e la risposta fu piombo, e andavano i piombo finché sono diventati 30-40 mila. Poi è successo. Dico tutto questo perché ci sono ragioni profonde, storiche, di questa grande sfiducia nei processi sociali. Il vecchio dirigente conservatore Laureano Gomez identificava i processi sociali come tumulti e disordine. Il Frente Nazionale, dopo l'accordo dei 30 anni di guerra tra liberi negli anni 60 ha proibito, asta dice, quello che è chiamato il costituente primario, che è come proibire per decreto la voce del popolo. Tutte proteste giustificabili e lo stato di eccezione. E tutto richiamo sociale si è evoluto sospettoso. Di tutto sospetto di ribellione e fu qualificato come terrorismo. Oggi sappiamo che le radici del settarismo politico stava la manipolazione dell'elettorato, la rapina per lo Stato del bottin, del bilancio pubblico, quindi anche la banca di impiego, l'occupazione dipendeva dai costi che distribuiva lo Stato. Il progetto antidemocratico di silenziare, annichilare le differenze. Quindi, e ora sappiamo con certezza che le radici della corruzione sta nell'esclusione della critica e il disprezzo per la dissidenza. Sappiamo anche oggi che la fonte della violenza sociale sta non nella semplice povertà, sino nella vergognosa disuguaglianza che invano si è trattato di aprire un cammino per la convivenza. E se noi vediamo delle statistiche, questi sono dati delle riviste nazionali in Colombia, dice, in un paese di 48 milioni di abitanti il 53% della terra che si può approfittare sta in mano a 2.300 persone e il 58% dei depositi bancari è in mano a 2.681 clienti, 48 milioni di persone. Come si può quindi creare un clima propizio a una pace vera senza dare opportunità, finora sconosciuta, a una delle società più disuguali del mondo? Questi elementi, quando si è trattato di costruire successo 20 anni fa, i media in contro, i partiti politici contro, gli Stati Uniti contro, nonostante si trattasse di avere da questa parte la maggioranza della popolazione, purtroppo i condizionamenti dei media facevano che la gente vedeva questi come demoni. Oggi, dopo tantissimi altri sforzi, quasi immaginabile che si chiede in un plebiscito siete o non d'accordo con la pace, e risulta che anche se per pochi voti, però più della maggioranza, hanno detto no. È come chiedere siete o non d'accordo sulla dignità. C'è la pace, come dice il professor Ferraglioli, il diritto supremo dovrebbe essere fuori discussione, però la manipolazione è tale, ogni giorno la tecnologia arriva al punto di costruire verità a partire da queste false notizie. Una cosa incredibile, come successe con manipolazione, però il risultato vero è questo. È tutta la lotta, adesso, dopo il no, e per blindare questi accordi, finalmente, giorni fa, la Corte Costituzionale ha approvato all'unanimità tutti i decreti approvati per trasformare gli accordi sono legittimi e quindi già nessun governo può prendere in considerazione. Però la grande sfida non è trasformare il monumento della sfiducia sulle 400 pagine di pace, sino quando la pace tangibile diventa un fatto reale, quando vuol dire mettere in pratica, che vuol dire quegli accordi quanto a sviluppo economico locale, a terra, riforme agrarie, perché poi cominciano gli interessi a essere pregiudicati o ad essere. Quindi se noi entriamo via l'aspetto giuridico, l'aspetto del reclamo, l'aspetto della protesta, è molto probabile che torneremo situazioni distinte, a fare più dello stesso, quindi nuovo la manipolazione, quindi sarà l'unica risposta di uno Stato che non fu capace 50 anni fa a dare l'essenziale. Adesso tutta stabilità che c'è nelle armi e con un vicino come la forza che ha il Venezuela, cioè ci sono molti pericoli, come il signor Trump messo lì nella Casa Bianca, c'è la risposta sempre militare di più piombo, è il più facile scenario. Allora io sinceramente ispirato dalla presenza del Papa Francesco ho preso una decisione un anno e mezzo fa di dire è ora di finalmente assumere la responsabilità di essere libero, di porre a disposizione l'esperienza, quindi di contribuire, e come un fatto di ringraziamento poter contribuire a che una visione, diciamola profetica, per dare un nome a questa visione strategica del Papa Francesco, plasmata nella enciclica Laudato Si, con lo sforzo con molti collaboratori e una rete che abbiamo creato in America Latina, vorremmo trasformare questa visione strategica in politiche pubbliche, nei diversi elementi di quello che è la relazione tra dignità, bisogna recuperare questi valori non convenzionali che a volte dimentichiamo, che solamente si moltiplicano a misura che li usiamo, la disuguaglianza e il cuidato della casa comune, cioè la cura della nostra casa comune, quindi del medio ambiente, che non è solamente curare il pianeta, ma curare l'umanità come tale. Quindi abbiamo proposto di fare un processo di dialogo latinoamericano su il cambio del paradigma, quindi su una nuova relazione tra lo Stato e il mercato e la società. Tre elementi essenziali della convivenza di una società: il ruolo quindi della società civile, come la società civile si può rincontrare con l'economia e con la politica. E quindi lì è necessario prima definire bene i concetti. Nel sistema che abbiamo visto negli ultimi anni, questi anche Franco, il neoliberalismo, il binomio mercato-capitalismo è collegato direttamente. Quindi mercato-capitalismo, cosa che non è vero, il mercato è venuto prima del capitalismo, è un meccanismo di scambio di beni e servizi, poi l'enfasi è stata data sul capitale e quindi la crisi del capitalismo, crisi del mercato o l'anticapitalismo, antimercato. Quindi prima definiamo che il mercato è esistito sempre e che dobbiamo essere capaci di un'offerta molto più variata di beni e servizi, di forme di organizzazione della produzione. Quindi abbiamo studiato diversi elementi, uno di quelli che mi è parso una proposta profonda, si chiama l'economia fondazionale o l'economia fondamentale, l'economia dei cittadini, l'economia, il capitale quotidiano, quello che qualsiasi persona in Italia, Bogotà, Città del Messico, ha bisogno per considerarsi cittadino, i trasporti, le poste, i servizi essenziali, la sanità, l'educazione, che poi occupano più del 40% del PIB in ogni paese, per cui è un fattore che genera ricchezza, genera occupazione, però deve essere trattato come tale e non deve dipendere dal livello di ingresso delle persone, che non vuol dire che se io non ho ingresso non ho diritto a vivere. Quindi concettualmente, mettendo questo come un elemento fondamentale, derivato da questo tutto il concetto dell'economia civile. L'Italia è ricca di esperienza di economia cooperativista, solidaria, di cooperazione come tale. Quindi in questo scambio, ma anche in America Latina, ci sono molte esperienze, i milioni di persone che sono associate nelle forme cooperative è enorme. Però bisogna organizzarsi, tenere organicità per poter stare nei tavoli dei negoziati e capire o il capitale privato o il capitale sociale o altre forme di capitale come si può contribuire al bene comune, a alla convivenza. Quindi è sempre una questione di coscienze, è sicuramente un tema di interessi, però io sono convinto che le persone poi alla fine, gli puoi anche argomentare che alla fine è anche conveniente, perché quando tu resti solo ad essere proprietario di quello che sta lì e vive in una condizione d'inferno, io vorrei capire poi la felicità dove la trova, perché ricordo un imprenditore in un ufficio al piano 18, l'ufficio era, non so se era forse 300, ma un caffè, a questo punto dico, ma insomma, chiediti il perché, qual è il legato, finiamoli alla fine un legato. Con questo argomento sono andato pure dalla famiglia Slim, e quando andai per esempio a invitarli a questo evento di un nuovo vincolo, diciamo, Stato, mercato, società, e mi disse Slim, che necessità, se partecipiate e vorremmo ascoltare quella visione di apprendimento. Dice, ma io la tengo chiaro, sono un amministratore temporale di ricchezza che distribuisco attraverso delle occupazioni che creo. Le felicito io. Allora sto dicendo, e facciamo di applicarlo, e arriviamo ad accordi, come detto, posto da trasformare vite, trasformare realtà, perché alla fine se adesso possiamo convivere. Dico questi aneddoti perché penso che alla fine queste persone, che sono anche loro su effetti di manipolazione, tutti gli ambulatori che stanno dietro, uno è padrone di 5 banche in Colombia, scopro da uno dei collaboratori di questo guadagna $1 milione al giorno. È chiaro che tu vai in un film, sembra una carcere, e allora tutta la vita c'ha il tuo incontro, perché scopro che il fratello è un buon signore, che è un vescovo importante di Bogotà, allora andiamo vedendo se lo è il vescovo, che si è compromesso con tutti gli associati della Chiesa, vediamo se qualcuna di queste idee riusciamo a portare. Cioè io penso che dovremmo trovare tutti i meccanismi, soprattutto non convenzionali, in questo momento, che è una fase, diciamo, di transizione, dove vorremmo trovare le condizioni di irriversibilità del processo, perché poi in una normalità è più facile allora poter mettere in atto nuove politiche. La Provvidenza ha voluto che, e giusto oggi c'è stato un incontro con il Santo Padre, e lui ha letto sua dichiarazione proprio su questo seminario, cambiando le relazioni tra mercato, Stato e società. Quindi sento, è stato in Colombia dal 6 al 10, l'idea nostra è, già tornando, poter costruire una minoria attiva prima e poi una massa critica che possano prendere queste espressioni, questi elementi, e poi chiederei a Cristiano ci possa fare una bella sintesi di quella che è stata la visita, l'impatto della visita del Papa Francesco nella società colombiana, per poter quindi dopo trasformare questa situazione, il processo in Colombia, come un laboratorio di politiche pubbliche che possono essere valide per l'America Latina, politiche pubbliche per la convivenza pacifica e per la coesione sociale. Come riuscire già a fare con la Red Panamassonica, creare sensibilità, il Papa ha appena annunciato un sinodo di vescovi sull'Amazzonia. Questo è molto importante, perché lì c'è il fulcro dell'est-ovest, canali panamassonici, del Pacifico, 4.400 km, dei quali 4.000 navigabili, 400 è un intermodale. Fare in tanti modi, però farli con rispetto delle popolazioni indigene, rispetto della natura, vedendo, però ci vuole, l'importante è occupare il tema ed evitare che ci sia la depredazione, che è stato il modello di sempre. Lo stesso nei temi della mineria, delle miniere. Di nuovo, se le popolazioni sono isolate, se non c'è integrazione. Un esempio, le FARC sono andate via dai territori che normalmente occupavano la gente per sopravvivere, perché non può aspettare di mangiare, dice, quando arriverà il post-conflitto. No, sanno produrre la foglia della coca, ma non solo perché sanno, perché vanno, gliela pagano anticipatamente e quindi già hanno i soldi per poter vivere, gli danno la foglia della coca, poi quello che fanno con la foglia non è un problema loro. Però questo automaticamente, i media hanno creato di nuovo che l'agenda con gli Stati Uniti è narcotraffico, quindi fumigazione e quindi i nuovi processi viziosi. Allora, lo stesso passa con la mineria, l'oro diventa illegale, eccetera. Ovviamente in cooptazione con gente senza scrupolo che gli interessa solo rapina. E delle ricerche che abbiamo fatto per proporre nuove formule, la nuova economia, abbiamo visto delle ricerche che avevano fatto la NASA sulla produzione di minerali, che l'energia fotovoltaica è la soluzione oggigiorno all'energia pura, pulita. Quindi già c'è la fattibilità di produrre il silicio, che oggigiorno è un silicio minerale altamente contaminante, molto caro e monopolio di una multinazionale. Questo silicio verde viene prodotto dalla buccia del riso, con un 99,99% di purezza, a un decimo del costo del silicio minerale, e senza contaminazione alcuna. È contrario, con la produzione di riso, il riso addirittura si può regalare, perché non è quello il valore economico, sino è la buccia del silicio. Quindi questo progetto, che è già fattibile, la nostra proposta è, invece di stare a dire la sostituzione delle coltivazioni con le arance, con qualche cacao, senza vie di penetrazione, senza commercializzazione, quindi entrare nel circolo vizioso e dire, signori, noi vogliamo entrare, in recuperare i 50 anni persi, entrare nel secolo XXI con forme nuove di energia. Quindi i nuovi negoziati, che siano con l'innovazione, con la tecnologia, con la bioeconomia, dove c'è un valore aggiunto importante. E credo che sì, questi elementi, per un lato nell'economia, riusciamo a concretamente poter dimostrare formule di creare non solamente ingresso nuovo o entrate nuove, ma anche formazione, pensare anche alle generazioni future. Quindi il guerrigliero, il demandante storico, pensando, se io entro in questo, io avrò anche l'opportunità che i miei figli, che studiano già in maniera distinta, possono essere parte di questa nuova questione. Quindi la cooperazione internazionale non è una questione di soldi, perché adesso gli europei hanno fatto un fondo fiduciario e tutti se li stanno sbranando in un paese, allora tutti presentano progetti, hanno questo è italiano, questo è svedese, questo è tedesco, poi i colombiani non lo so che, che molto di questi soldi andranno agli esperti internazionali. Io poi sinceramente dico, ma scusate, ma perlomeno facciamo uno scambio di innovazione, di tecnologia con la produzione locale. Allora assicuriamo che compriamo il prodotto, diamogli un valore aggiunto, quindi tu dimmi se c'è il caffè speciale, facciamogli fare il primo passo nel processo di trasformazione, poi lo compri a un prezzo che sia valido per quello. E tu del cacao, copiare proprio la seme di cacao, facciamo la pasta con una qualità sufficiente, non vogliamo pretendere di essere l'Int direttamente, però se facciamo la pasta tu puoi comprarla, quindi gestire questa relazione virtuosa e positiva. Perché Franco, è importante che queste riflessioni, il tema dell'America Latina, non lo vediamo tanto la diagnosi dei problemi, cioè la biblioteca, facciamo dal punto di vista delle grandi opportunità per la nostra civiltà occidentale. Per alcune ragioni, io conosco l'America Latina, poi possiamo fare una parentesi con l'Africa, però per la storia che hai fatto prima dell'America Latina, in Africa è lo stesso, conseguenze sì ce le vediamo già in casa, perché adesso i migranti, secondo me, non è solamente una questione di ISIS. Chiedersi gli inglesi, i belgi, i tedeschi, i olandesi, che hanno fatto lì per meritare questo? La gente che muore di fame, perché cooptano qualche elite, vendono il paese, sfruttano quello che c'hanno a sfruttare, questo non mi interessa. Allora poi li vedrete a casa, cioè, mettiamo un po', ma no, sul plan Marshall di ricostruzione, c'è piani di ricostruzione a fondo per quello che dovrebbe essere, con le responsabilità di chi è stato, se vogliamo, perché nei processi di pacificazione, diciamo, la verità, vogliono la verità delle FARC, eccetera, una giustizia transizionale, però sulla base della verità, però ognuno assume le sue responsabilità. Questa stessa dovremmo vedere che giustizia transizionale tra l'Africa e l'Europa possiamo noi identificare e capire chi è responsabile e assume questa responsabilità. E non è solamente una questione di reagire, ma perché sennò poi ci manca, ci conturbiamo vedendo se il negrito che sta per strada e diventa un fattore come si dice, di reazione emotiva. Invece prendere coscienza di che vuol dire la storia. Cioè, la storia è un tema essenziale che è successo con i trattati dopo la prima guerra mondiale. E chi ha deciso di separare i paesi, dopo il 11 settembre, chi ha deciso di incontrare il diavolo sotto la cantina del Saddam Hussein e la primavera araba, cioè, tutti questi hanno una responsabilità e responsabilità implica costi. Allora, oggi il fattore di crescita mondiale continua ad essere guerra e petrolio. Non è cambiato. Finché questa equazione non cambia, e non sostituiamo l'estrazione fossile per energia rinnovabile pure. Guerra per un'altra forma di convivenza, con coscienza. Ormai di leader mondiali sono rimasti pochi, penso che Paolo, non so, la provvidenza di quando ce l'ha tempo, dobbiamo accorparlo perché è la voce che sta costantemente riflettendo su questo. E in casa, come sempre succede, non necessariamente tutti sono entusiasti di questo. Per cui io noto che mi sono trovato in quest'anno di servizio che ho fatto al SELAM, Consiglio Episcopale Latinoamericano, che veramente c'è un posto che mi dà pena, ho parlato perché non avevano, non so, e quindi anche loro hanno bisogno di una trasformazione profonda. E però questo elemento essenziale di creare coscienze nuove, quando noi vogliamo trasformare o incidere in questa, che per me è il tema poi fondamentale, noi stiamo in una transizione di civiltà. Noi in questa transizione di civiltà abbiamo due vie, o essere spettatori usando paradigmi vecchi, cercherai di capire il nuovo, quindi come diceva Einstein, fare le stesse cose pensando di avere risposte differenti è la pazzia. Per cui questo sforzo civilizzatorio ci deve trovare pronti a capire che è successo nelle ultime, perlomeno, tre grandi transizioni di civiltà, quando dall'antichità si passò al Medioevo, dal Medioevo si passò alla modernità e oggi alla postmodernità. Prima le transizioni duravano 300-400 anni, oggi io perlomeno nel 60 fino a quello che conosciamo oggi. E quindi la tecnologia, l'innovazione, addirittura ci dobbiamo preoccupare del post-umano. Ieri Jeffrey Sachs ci presentava delle slides drammaticamente deprimenti, com'è oggi la situazione delle migrazioni, degli scambi, delle disuguaglianze che si stanno dando, ma anche tecnologiche. Ci saranno popolazioni che non arriveranno mai a poter usare la tecnologia o perlomeno essere parte di questo nuovo mondo tecnologico. Per cui è trattare il posto umano. Cioè, stavo vedendo come i posti di lavoro cambiano perché tutti sono sostituiti. Quindi questi elementi devono essere alla base della nostra riflessione e come comunità occidentale, la proposta, vedere nelle realtà dove questo modello liberale è una fabbrica di povertà e una fabbrica di disuguaglianza, non è ancora penetrato a fondo, e quindi come sempre succede il sottosviluppo è un'opportunità, perché come più del 50% della popolazione è fuori dal sistema, ci sono le condizioni per poter tenere una nuova forma di convivenza, un nuovo modello economico. Nelle realtà invece dove la cultura consumista ormai ha preso piede anche nelle classi povere, c'è l'aspirazione di ogni persona, non importa il livello di entrata che ha, è lo stesso di consumare quello che vede, la funzione sociologica del consumo, quindi per loro la felicità è comprare, fare, tenere, ormai, e poi tutti i media sono messi in questo modello. Quindi vedere che esperienze in America Latina in positivo, di opportunità, di costruire, di mettere l'innovazione tecnologica al servizio della gente, le esperienze delle buone prassi. Questi scambi ci possono aiutare a loro sicuramente a creare nuove condizioni, ma anche in Europa io penso che c'è un degrado, c'è un ritorno, c'è anche qui il modello sta creando come povertà, disuguaglianza, esclusione, oltre al tema ovviamente di tutti i fondatori che di noi. Finanza, la gente deve sopravvivere, deve vivere. Quindi costruire questa opportunità, questo laboratorio di politiche e fare questa relazione con certi paesi dell'America Latina, con certi paesi europei, proprio una relazione proprio sistematica di approfondimento, ripeto, di proposte, di contributi, con una concezione di rigenerare, il concetto di rigenerazione è fondamentale, c'è tutto quello che non può essere rigenerato è cenere, quindi entierro digno, può essere istituzioni, possono essere anche mentalità e forme di essere, quindi vedere in che forma con la meraviglia della biodiversità che esiste in America Latina, nel caso della Colombia, penso è il concentrato di biodiversità più importante di tutte le Americhe. Le statistiche parlano di più del 50% della biodiversità concentrata lì. Quindi tutte le opportunità che questa biodiversità può dare alla medicina, alla biotecnologia, a sintesi molecolari nuove, con le ricerche, la capacità che c'è in Europa, con le opportunità che ci sono lì, dovrebbe essere una relazione virtuosa di nei fatti e nelle forme di come farlo, poter dimostrare a chi è abituato a concentrare potere, a concentrare ricchezza, a dire no, rigeneriamola, moltiplichiamola, tu continuerai anche ad avere di ma più, però stai in un intorno fertile, positivo. Per cui ci sono le condizioni, i nemici. I politici di professione, cioè il politico di professione vive dell'amministrazione pubblica, insegni sicurezza, videocamere, carceri, disciplinari, non incontrare sul territorio, che diventa un fattore di crescita economica. Ma così è qui, è lì, così, e quindi come passare dall'amministrazione del problema alla gestione del rischio, il rischio vitale, il rischio generazionale, quindi proprio di nuovo cambio di paradigma, che sono gli elementi essenziali che ci fanno entrare in questo secolo XXI, in questo cambio di epoca, con un approccio distinto. Quindi l'unione non interessa, vuole mantenere il statu quo, i problemi ci sono là, dei mega pensioni, ci ascolto più in televisione, i vitalizi, questo è il costo della politica stesso. Sembra vivere in Italia o in Colombia la stessa cosa, perché sono gli stessi modelli. La vista è il prodotto, è servire i tempi, le condizioni. Quindi A volte se possono sembrare lirismi, a volte possono sembrare teorie, però dobbiamo iniziare, i primi passi, a trasformare costantemente questo tipo di relazione. Quando tra i partecipanti al convegno c'è un rappresentante dei movimenti popolari, diceva, sinceramente, poi Cristiano complimenti, la conclusione a Chiamattara, cioè, si è fatto anche questo, non è successo perché, cioè non si trasforma necessariamente. Allora dice, creiamo coscienze, vogliamo creare società, noi bisogna trasformare, devo essere noi persone nelle società che devono cambiare, se vogliamo trasformare davvero. E quindi assumere questa responsabilità. La storia ci insegna e le opportunità ci sono. Io ho fatto una domanda, dico, se nelle anteriori transizioni di civiltà la Chiesa ha giocato un ruolo importante, San Benito di Nursia, tra il Medioevo e l'età moderna, il Papa Giovanni III, Carlo Magno, adesso ha chiuso quella transizione romana. Quindi ci sono stati due momenti chiave. Allora mi chiedo, c'è un momento oggi, ovviamente, di una Chiesa aperta, di un dialogo interreligioso, interculturale, ma Papa sta dicendo noi non dobbiamo, se sta mandando a ricordare, cioè, l'atteggiamento di essere chiusi in se stessi, di essere aperto, di capire di più e stare con tutti, con gli altri, perché questo è il concetto del mandato del cristianesimo. E quindi quando si parlava dei momenti, no, della libertà e uguaglianza, abbiamo anche usato il concetto di fraternità, allora è il momento di metterlo in atto. E quindi io l'altro giorno con il professor Razzetto dicevamo, allora Stato capitale, mercato capitale, pianificazione, regolamentazione, statismo. Le due cose possono cambiare. Una cosa è lo Stato centrale, può essere decentrato, può essere lo locale, la istituzionalità territoriale. E terzo, la società civile o solidarietà civile. Cioè, e nel dibattito che abbiamo avuto, il tema è si può interrelazionare produttività, quindi mercato, redistribuzione, Stato, reciprocità, quindi relazioni della società, e solidarietà, come? O solo compartimenti esterni, però come interrelazionare? Perché lì questa sfida, questa capacità nuova di una nuova sintesi, nella realtà, nell'applicarla, possiamo davvero stare nel costruire le nuove opportunità e il nuovo mondo. Faccio una pausa. Però che bello ascoltare una voce normale. Nel cambio civilizzatorio di cui ci ha parlato il dottor Vincenti, sicuramente c'è un ruolo da protagonista di Papa Francesco. Come sapete, è venuto agli inizi di settembre in Colombia e ha dato dei messaggi forti per consolidare la pace, ma ancor prima ha sviluppato una diplomazia da parte sia del Vaticano, ma in particolare nella sua persona come Papa Francesco, che ha aperto gli occhi e ha sostenuto questo percorso di riconciliazione. Ricordiamoci che dopo la debacle e il pericolo di ritornare alle barbarie, che rappresentava la perdita la sconfitta del referendum per la pace, e subito viene dato il premio Nobel al presidente Santos. Sicuramente c'è la pressione e lo zampino di Papa Francesco, dove anche nel viaggio a Bogotà ha detto chiaramente che non si può lasciare la Colombia ostaggio dei nemici della pace, e ha usato un eufemismo per non citare il nome di Uribe, l'ex presidente della Repubblica tristemente famoso per i crimini che ha commesso. Nel viaggio in Colombia ha detto: volete scegliere la zizzania o la pace? Noi come Chiesa vogliamo la pace, e questo l'ha dimostrato fisicamente, perché ha rifiutato l'incontro con il presidente Uribe. Uno dei momenti più importanti, il terzo giorno, nella visita del Papa Francesco, è stata la messa a Villa Vicenzio davanti al Cristo di Bocaia, un Cristo mutilato, senza mani, senza braccia, perché è il frutto di quel Cristo che era nella Chiesa nel 2000, che le FARC, le guerriglie della FARC, hanno bombardato una chiesa provocando oltre 100 morti, tra cui 30-40 bambini innocenti che erano accompagnati nascosti sotto i banchi per difendersi dagli scontri tra le FARC e l'esercito in un piccolo pueblo di afrodiscendenti. Questa immagine di chiedere perdono a Cristo così oltraggiato l'ha dimostrato il Papa Francesco dialogando con 5 vittime, come per esempio Pedro adesso utilizza lo sport per reinserire i bambini soldato. Lui è stato un bambino soldato, dove assurdamente le Nazioni Unite parlano di reclutamento, ma in realtà è una schiavitù. Nessuno vuole fare la guerra in Colombia, e quindi tutti i gruppi armati, paramilitari, lo Stato, tutte le guerriglie storicamente hanno sequestrato, reclutato migliaia di bambini soldato. Una grande tragedia che si assomma alla perversione delle barbarie di una guerra che si trascina da 50 anni. Pensate, 9 milioni di vittime, 220.000 morti assassinati. Il rapporto Springer parla di 19.000 bambini soldati a partire dal 1990. Di fronte a questa grande tragedia, il Papa Francesco ha dato un segnale forte di ricerca di riconciliazione, ma nello stesso tempo per esigere giustizia. Negli accordi di pace non è previsto nessun punto sui bambini soldato. Lui ha chiesto: chiediamo verità e giustizia per i migliaia di bambini, soldato, ma anche per tutte quelle bambine sequestrate, diventate oggetto di violenze sessuali da parte dei comandanti delle guerriglie o dell'esercito. Ecco che anche il Papa ha dimostrato una scelta dei piccoli, una scelta di, anche forse mi permetto di azzardare, di quella ricerca di giustizia che ha insegnato Lelio Basso. Vi sembrerà forse un po' estremo dire questo. Io mi voglio soffermare su 2 punti specifici in cui la profezia di Lelio Basso, della Fondazione del Tribunale dei Popoli, è stata recepita dal Papa Francesco. Gentilmente la signora Ruth, qui della Fondazione, mi ha portato un lavoro preziosissimo fatto sul Tribunale Permanente dei Popoli a Napoli nel marzo del 95, dove si è fatto tutto un lavoro sulla violazione dei bambini di strada in America Latina, e c'era stato fatto uno studio Bambini e la città, nei casi di San Paolo, Bogotà e Palermo. Nel 95 c'era una sociologa, Maria Cristina Salazar, dell'Università Nazionale di Bogotà, che è moglie di uno dei sociologi più importanti dell'America Latina, che ha cercato di dialogare tra società civile e accademia. In un momento storico dove nel 95 c'era ancora l'impiezza sociale, assassinavano, c'era il massacro dei bambini di strada non solo a Rio de Janeiro ma anche in Colombia. Eppure questa esperienza storica del 95 l'ha riattualizzata Papa Francesco, perché appena sceso dall'aereo stanchissimo il 5 di settembre, dopo 14 ore di volo, arriva l'annunziatura e è accolto dai bambini di strada di cui parlava Maria Cristina Salazar. L'hanno accolto con ritmo dei tamburi afro, con rap, e il Papa Francesco ha ricordato un messaggio che diceva Cristina Salazar: voi siete coraggiosi, voi siete ex bambini di strada, non accettate di essere vittime, ma volete essere protagonisti del cambiamento, che è un po' la chiave di lettura che ci ha insegnato l'esperienza del Tribunale Lelio Basso. Un'altra esperienza storica che sicuramente anche il Papa Francesco ha letto, la lotta contro il dominio delle transnazionali. In vari momenti a Bogotà il Papa Francesco ha ricordato dei messaggi che magari qui a Roma voi avete ascoltato. Quando l'economia mata, quando l'economia uccide, bisogna cambiare. Il Papa Francesco ha ben chiaro le intuizioni della Fondazione Lelio Basso, tutto il percorso del Tribunale dei Popoli, e l'ha dimostrato in tante piccole frasi che si possono ricostruire nel viaggio fatto a Bogotà. Per esempio, ha fatto dei riferimenti chiari sul tema di come questo dominio delle multinazionali è legato alla corruzione, al punto che ha usato una immagine fortissima nel dialogo con i vescovi del Selam. Ha detto: voi non dovete essere portaborse, ma i portaborse in America Latina sono quelli che hanno i soldi, che portano, accompagnano il politico non si sporca a portare le borse, ma c'è sempre qualche portaborse che lo accompagna. Questo perché il Papa Francesco voleva dare un messaggio chiaro di fronte ai vescovi e al clero dell'America, della Colombia, ma anche dell'America Latina, che hanno scelto chiaramente un'opzione a favore di Uribe, hanno scelto una difesa del no al plebiscito, per tante bugie che magari anche il dottor Vincenti ci ha appena spiegato. Ecco perché anche il Papa Francesco ha parlato chiaro, mentre nella globalizzazione del secolo XXI nessuno parla chiaro, c'è un messaggio profetico di Papa Francesco che si è permesso di ricordare proprio a Medellin come le transnazionali si sono sviluppate anche attraverso del dominio del narcotraffico. Quando profeticamente il dottor Ippolito era accompagnato con Caselli nel 98, era una spia d'allarme che purtroppo né la società italiana né la società colombiana ha capito. Già all'epoca c'era una stretta alleanza tra le mafie colombiane, l'Andrangheta negli anni 98 con Cosa Nostra, e oggi continua questo dominio con l'Andrangheta che garantisce l'accesso di tutta la cocaina, della coca prodotta in Colombia, oggi diventata di nuovo il primo produttore mondiale. L'accesso all'Europa è permesso attraverso l'Andrangheta, arrivando soprattutto da varie forme, dall'Africa, attraverso il porto di Gioia Tauro o per il porto di Rotterdam, garantizzando il monopolio assoluto di quel sistema di morte che se oggi colpisce tanti migliaia di giovani in Europa, però ha una gravissima responsabilità per il sistema dell'Andrangheta. E il Papa Francesco questo l'ha detto a Medellin, capitale dei narcos, tristemente famoso di Pablo Escobar. Lui ha fatto un riferimento dei vari settori, le coperture politiche del narcotraffico, ha parlato dei sicari bambini, che anche oggi, per assurdo, vanno di moda i nostri bambini di strada a Bogotà, a Medellin, emulano Gomorra, emulano Narcos. E invece dobbiamo noi raccontare un'altra storia, che non è quella dell'oppressione, ma la storia dell'autodeterminazione dei popoli. Però vi assicuro che Papa Francesco ha letto tutto il lavoro che con sacrificio voi avete portato avanti in questi anni. E quindi, un po' così, non so se magari per rendere più dinamico il dialogo fate qualche domanda, perché noi avremo molte cose che però da noi sono molto normali in Colombia, invece è forse difficile capire la complessità colombiana qui dal contesto italiano. Se invece ci aiutate a leggere, fate qualche domanda. Diamo la parola. Allora, uno dei problemi strutturali della guerra, del conflitto in Colombia, è il problema della terra. Pensa che stiamo parlando di 6 milioni di ettari rubati ai contadini. In un contesto come quello colombiano, dove più o meno 25-30% dei colombiani ancora vivono nelle campagne. Quindi, a causa della guerra c'è stata tutta una politica di espulsione, di splassamento dei contadini, che comunque loro non erano poveri contadini, erano riusciti a sviluppare una gran ricchezza non solo culturale ma anche delle terre della Colombia, perché la Colombia è ricca di petrolio, forse il miglior caffè al mondo, di tutta una miriade di risorse naturali che fanno apprezzare per milioni di contadini, hanno vissuto non in condizioni di sopravvivenza, ma anche in una certa situazione di ricchezza o dignità che offrivano i prodotti del campo. Da un giorno all'altro, per l'incursione violenta di tutti i gruppi armati, dai paramilitari alle guerriglie, da un giorno all'altro c'è stato uno sradicamento di tutti questi contadini. Gli avvisavano questione di ore: se volete salvare le vostre famiglie dovete andare via. Questo ha portato a uno sradicamento anche culturale, perché nella città non c'è questo riconoscimento alla cultura della famiglia. E poi il dottor Vincenti completerà: questa è rimasta una delle ferite gravi in Colombia. Gli accordi di pace hanno tentato di tappare una necessità di giustizia nei confronti della restituzione della terra, che in teoria c'è il punto, mi pare, punto 3 sul tema della terra, che è stato firmato sì negli accordi firmati a novembre dell'anno scorso, però una delle chiavi per trasformare gli accordi in politiche di inclusione, anche per pensare una certa riforma agraria, è il percorso legislativo che stanno facendo in questi mesi, sia nel Parlamento che nel Senato, per approvare leggi che applicano gli accordi di pace. Purtroppo, per tante contraddizioni, è un processo che si è rallentato, con il grave pericolo che a marzo ci sono le elezioni parlamentari e a maggio c'è le elezioni presidenziali, non si riesca a approvare tutte queste leggi, questi regolamenti attuativi, che anche per vedere come restituire ai contadini vittime tutto questo percorso. E quindi c'è il gravissimo rischio, e per questo anche il Papa Francesco ha scelto strategicamente questi giorni imminenti alle elezioni. Trapelata la notizia, non si sa chi l'ha data, che i vescovi colombiani avevano chiesto che il Papa Francesco non venisse in questo momento, perché si potevano decidere strategie politiche di alleanze tra Chiesa e politica. E invece lui ha voluto scegliere proprio settembre per dare uno scossone alla pace. In questo senso, per dare uno scossone, per esempio, alla società civile, che anche con i gesuiti, voi conoscete di più padre Javier Giraldo, ma tutto il percorso che ha portato avanti con i laboratori di pace nel Maddalena, padre Francisco de la Rux, c'è tutta una ricerca di pace dei territori portata avanti da vari settori della Chiesa, ma anche della società civile più laica, che chiedono la riforma agraria, chiedono l'implementazione di accordi sul tema della guerra, sul tema, perdono, della terra, ma adesso in Parlamento è un po' bloccata la situazione. Io penso che bisogna mantenere alta l'attenzione sempre sulla Colombia. Approfitto di Amnesty per ricordare che dalla firma degli accordi di pace in novembre dell'anno scorso hanno già assassinato 140 leader sociali in condizioni, tra virgolette, di pace. Questo dimostra che gli sforzi della società civile internazionale, in primis Amnesty International, mantenere tutto un percorso di denuncia, di raccolta firme per difendere la vita dei difensori dei diritti umani, va continuato. E soprattutto va continuato lo spirito di rete, che accennava il dottor Vincenti, di come la società civile, tanto italiana, europea, internazionale, possa costruire ponti di solidarietà per difendere la pace in Colombia. Anch'io ho conosciuto e ho seguito, soprattutto all'inizio, 10 anni fa, la comunità di pace di San José de Apartado e mi piace ricordare, c'è stata una missione, mi pare, a marzo, di alcuni sindaci di Narni, legati alla comunità di pace, e anche di altre città europee del Belgio, e hanno anche loro scritto una carta, una lettera a Papa Francesco, chiedendo che vada a visitare anche altre esperienze di resistenza non violenta. Il Papa Francesco non è andato a visitare la comunità di San José de Apartado, però quando è andato a Cartagena, leggete il discorso che ha fatto per la difesa dei diritti umani, ha sottolineato il tema della non violenza attiva. Quando lui fa riferimento, per esempio, alla giornata della pace sul tema della non violenza, ricorda anche esperienze storiche di non violenza in America Latina che sono state pagate col martirio. E sicuramente l'esperienza che ha portato in Italia, grazie alla Fondazione Lelio Basso, padre Javier Giraldo, sicuramente ha suonato in alcuni collaboratori vicini del Papa Francesco. Questo per dire che è importante unire forze. Il professor Vincenti magari ci insegna ad avere uno sguardo più verso il futuro, però anche il titolo che abbiamo voluto dare di questo seminario qui, Colombia come laboratorio di pace, sempre stato laboratorio di guerra, invece rompiamo gli schemi, pensiamo a un nuovo paradigma civilizzatorio fondato nella speranza per costruire una nuova generazione di sviluppo locale, sviluppo per i popoli prima di tutto, buen vivir per i popoli, a partire dall'insegnamento delle grandi esperienze di non violenza gandhiana, storica, tra cui c'è sicuramente la comunità di San José de Apartado, le comunità ecclesiali di base, storicamente hanno portato una scelta opzione preferenziale per i poveri, la teologia di liberazione in Colombia. Sembravano cose che ci aveva insegnato Linda Bimbi qualche anno fa, e invece il padre Scannone, siamo stati dal Papa oggi e ieri ha fatto la sua relazione magistrale dicendo: oggi il Papa cerca di attualizzare il messaggio della teologia di liberazione con quella enfasi nella teologia del popolo, che c'è una matrice più argentina, però è tutto un percorso che ci riporta all'esperienza della Fondazione Lelio Basso, delle comunità in Brasile, con cui ha fatto molto dialogo in questi anni a Roma, e Papa Francesco, bisogna seguire il magistero e le parole di Papa Francesco, perché ogni tanto mette alcune piccole frasi. A Medellin lui ha ricordato: utilizziamo il metodo vedere, giudicare e agire, che è stato iniziato nel 68 con la conferenza che noi consideriamo concilio della Conferenza Episcopale Latinoamericana riunita nel 68. Sembravano, sì, però anche solo averlo citato, il Cardinale Salazar non voleva assolutamente, era una frase che non era scritta nel discorso, l'ha letta al Papa Francesco al momento. Però è sufficiente una frase così per capire come l'opzione preferenziale dei poveri, iniziata storicamente nella Chiesa latinoamericana a Medellin nel 68, non è un tema del passato, ma cerca di ravvivarlo oggi nell'attualità. Ci avete parlato molto del ruolo del Papa in questo processo, ma le forze in campo, no? Quanta parte di Chiesa colombiana in realtà rema contro, al di là di ciò che appare, se c'è la parte che rende. volto nella città, pur avendo noi quotidianamente i patroni che arrivano, la polemica sui respingimenti, la criminalizzazione delle ONG che organizzazioni non governative sono state quest'estate, la rappresentazione e la vicenda non può essere messa da parte, perché inevitabilmente l'Europa è costretta a affrontare gli esiti dei disastri che ha cagionato in Africa, e se noi in questo momento non siamo interessati a ciò che avviene nelle paesi africani, l'Europa continua a dare i dati paesi europei attraverso l'esportazione e la vendita delle armi, poi è difficile che non parliamo di conseguenze. Ecco, se per l'Africa dovremmo quotidianamente affrontare, c'è tante indifferenza e ancora noi abbiamo visto che veniamo da lontano, che abbiamo l'ambizione di continuare a portare accendere vari di attenzione su aspetti di mondo che ci vogliono strettamente in connessi con la nostra vita, continueremo a farlo con la consapevolezza. Minoranza, ma sono il reflusso di attenzione di come minoranza a costituire in modo una attenzione per la nostra vita. Noi stiamo ripartendo sulle basi sull'America Latina e sull'Africa e speriamo di avere. Abbiamo avuto in passato un confronto, la cooperazione, il concorso di altre realtà che continuano testardamente, tenacemente a mettere al centro non interessi, i diritti delle persone, anziché interessi delle multinazionali. Grazie a voi. Dire la sintesi. No, l'elenco delle sentenze. Ah, beh, per quando? Allora, se ci fate avere del tempo, sì, tanto sì. La mail ce l'avete, ci fate avere l'indicazione, qualcuno di noi sarà presente sicuramente. Questo ce l'avete? Lo teniamo, lo portiamo a volontà, sì, lo portiamo a volontà, grazie. Comunque c'è un saluto. No, il saluto ve lo scrivo adesso su altri libri che adesso vediamo. Ma e anche c'è l'edizione spagnola. Sì, quello ce l'ho in spagnolo.